Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. A questo punto, se Berlusconi su questo tace, mi viene il dubbio che strizzi l'occhio a Renzi, perché chi vuole il proporzionale vuole l'inciuccio, vuole il minestrone, vuole tenere il piede in due scarpe. Però non ho tempo e voglia di occuparmi su questo, stiamo preparando la riforma della giustizia, la riforma delle pensioni e la riforma della scuola. Chi ci ama ci segua, non costringo nessuno a far niente contro voglia. Continua, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, il tira e molla all'interno del centrodestra, in particolare tra Salvini e Berlusconi. Salvini, vi sentite, rimprovera Berlusconi, insomma, di occhieggiare un po' a Renzi, di essere più interessato a una possibile alleanza con lui che non all'interno coerentemente del centrodestra. Stessa accusa da parte di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia. Però diciamo che i problemi ancora più seri di dissidi interni alla coalizione, ma allo stesso partito, riguardano il centrosinistra e il PD in particolare, con Renzi che dopo questi sconfortanti risultati delle amministrative, insomma, ha fatto un po' di polemica, si è tirato addosso un po' di strali e fra l'altro dice quello che ha rovinato, quello che ha fatto vincere la destra e quindi sconfiggere il PD, e sono state tutte queste nostre polemiche interne. Ma come se non bastasse, poi parte lo scontro a distanza con Prodi. Prodi che replica una battuta di Renzi, è una specie di metafora, dice: se Renzi mi chiede, mi invita a spostare un po' più in là la mia tenda, lo farò, tanto leggera ci sta anche nello zaino. Ne parleremo di questo e poi ci occuperemo anche di molte altre cose, molti temi. Anche stasera, come l'inchiesta Consip, che vive, oltre a tutti i suoi intrecci, dei filoni molto complessi, un ulteriore colpo di scena, perché uno dei magistrati che indagava sulla centrale d'acquisti della pubblica amministrazione, per l'appunto la Consip, cioè il magistrato napoletano Woodcock, è indagato a sua volta, e anche la nota giornalista Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto. Insomma, tantissimi argomenti, voi lo sapete che potete commentarli sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al numero 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, 349-238-6666. Ma come sapete ormai da tempo, prima di tutto, in sintesi, vi racconto la giornata. Allarme informatico, un attacco a hacker globale si diffonde dalla Russia, colpita anche la centrale di Chernobyl in Ucraina, molte società sotto scacco in tutto il mondo. L'inchiesta Consip, il PM di Napoli Woodcock, che è indagato con la giornalista Federica Sciarelli dalla Procura di Roma per violazione del segreto d'ufficio. Il magistrato commenta: fugherò ogni ombra. Il dopo elezioni amministrative, tensioni nel centrosinistra, Renzi commenta, le polemiche nel PD fanno vincere la destra, e intanto scoppia uno scontro interno al partito su Prodi. Rai, sul caso del contratto milionario a Fazio, la presidente Maggioni sottolinea: non so se l'azienda avrebbe retto all'uscita di Fazio, e il consigliere Diaconale accusa: siamo stati costretti a dire sì, se no andava alla 7. Google da Bruxelles, multa record di oltre 2 miliardi di euro per abuso di posizione dominante. Migranti, l'esodo infinito dalla Libia non accenna a diminuire, 10.000 persone soccorse in 4 giorni. Il ministro dell'interno Minniti rientra con urgenza in Italia per affrontare la nuova emergenza. All'Italia Ryanair interessata all'acquisto, ma solo se ben ristrutturata, sottolinea l'amministratore delegato. E poi l'omicidio di Ciro Esposito, ridotta la pena a De Santis di 16 anni in appello, nella sentenza di primo grado era stato condannato a 26 anni di carcere. E poi lutto in TV, è morto il conduttore e paroliere Paolo Limiti, aveva 77 anni, da Conti a Facchinetti il cordoglio della televisione. E per il calcio, in campo la nazionale Under 21 contro la Spagna. E partiamo quindi da questo nuovo cyberattacco globale. Un attacco molto simile a quello di WannaCry, che lo scorso mese ha infettato migliaia di computer in oltre 150 paesi. Si chiama Petya, il virus che si sta diffondendo in tutta Europa, dalla Danimarca all'Ucraina, passando per la Gran Bretagna. È un ransomware, un virus che rende illeggibili file contenuti nell'hard disk e chiede un riscatto di $300 in bitcoin per fornire una chiave di decrittazione. La prima denuncia di un attacco informatico è arrivata in mattinata dalla compagnia danese di trasporto marittimo, energia e cantieristica navale Maersk, ma è in Ucraina che nel pomeriggio si sono moltiplicate le infezioni. Computer di funzionari governativi, incluso il vice premier Pavlo Rosenko, colossi dell'energia, la Banca Nazionale, la rete metropolitana e l'aeroporto Borispol della capitale, persino la centrale nucleare di Chernobyl, dove sono andati parzialmente fuori uso i sistemi che monitorano i livelli di radiazione. Il virus si sta ora diffondendo anche negli Stati Uniti. Petya aveva già colpito i sistemi informatici nel 2016. Ma Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di mondo informatico, Google è andata giù pesantemente a Wall Street dopo la maxi multa europea. I titoli di Mountain View perdono oltre l'1,20%. 2,42 miliardi di euro, una multa record, quella inflitta dalla Commissione Europea al gigante online Google. Today the Commission has decided to fine Google. Nell'annunciare la maxi stangata, la commissaria alla concorrenza Vestager ha spiegato che l'infrazione contestata riguarda l'abuso di posizione dominante nel settore dei motori di ricerca. In sintesi, la gigante di Mountain View avrebbe operato una distorsione del mercato, privilegiando i risultati dei prodotti venduti da Google Shopping Services, il suo servizio di acquisti comparativi, rispetto a quelli dei concorrenti relegati nella parte bassa delle pagine web. Bruxelles ha concesso 3 mesi di tempo al colosso per mettere fine alle sue pratiche anticoncorrenziali o fronteggiare ulteriori sanzioni, che a conti fatti potrebbero tramutarsi in 14 milioni di dollari di multa al giorno. Non siamo rispettosamente d'accordo con le conclusioni, stiamo considerando di fare ricorso e continueremo a perorare la nostra causa. Questa è la laconica replica di Google. Il caso si inserisce in una sempre più aperta tensione transatlantica, con Bruxelles all'attacco dei monopoli americani e gli Stati Uniti schierati a difesa dei loro giganti, pronti anzi ad accusare l'Europa di protezionismo mascherato. Solo un anno fa la decisione su Apple, con l'ordine all'Irlanda di recuperare 13 miliardi in tasse non pagate. Dublino, recalcitrante a farlo, sta provvedendo solo ora a dare seguito alla misura europea. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo all'inchiesta Consip. Il PM di Napoli, John Woodcock, è indagato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta Consip, di cui lo stesso si sta occupando, per violazione del segreto d'ufficio. Lui ha commentato: ho assoluta fiducia nei colleghi della Procura di Roma e sono quindi certo che potrò chiarire la mia posizione, fugando ogni dubbio, ogni ombra sulla mia correttezza. Con lui è indagata anche la giornalista Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto. Intanto l'assemblea degli azionisti di Consip S.p.A., società interamente controllata dal Ministero dell'Economia, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da 3 membri. Il nuovo amministratore delegato è Cristiano Cannarsa, attuale numero 1 di Sogei, che subentra Luigi Marroni. Presidente è Roberto Basso, attuale portavoce del ministro dell'economia Padoan. Poi ritorniamo su questo colpo di scena che ha vissuto l'inchiesta Consip per capire cosa sta succedendo. E adesso le stoccate della Corte dei Conti sul debito e corruzione in Italia. Ancora una volta la Corte dei Conti punta il dito contro il livello troppo elevato del nostro debito pubblico e ancora una volta sulle misure anticorruzioni, insufficienti a combattere un fenomeno devastante. Non solo, la crescita in Italia è ancora troppo modesta rispetto agli altri paesi europei. L'allarme del presidente di coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Angelo Buscema, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato. L'auspicio della magistratura contabile è che si vada oltre la spending review, che non basta, e si punti al rientro dei conti con misure che non pesino sulla crescita. A consuntivo le misure di riduzione, mentre sembrano aver salvaguardato l'operare di interventi a sostegno dei comparti produttivi, non hanno prodotto risultati di contenimento del livello complessivo della spesa. Il presidente della Corte dei Conti accenna anche ai risultati di Consip, la SPA del Ministero dell'Economia, che opera come centrale unica per molti degli acquisti delle PA, finita al centro delle cronache per un presunto caso di corruzione che tocca politici e dirigenti della società. Il suo ruolo, secondo Buscema, è centrale nelle politiche di contenimento della spesa, ma troppi acquisti della PA avvengono ancora con procedure extra Consip. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora la politica. C'è forte tensione nel centrosinistra dopo la sconfitta alle amministrative. Renzi commenta le continue esasperanti polemiche nel centrosinistra. Alla fine non fanno altro che agevolare il fronte avversario. Se pensano che il problema sia soltanto dentro il PD, dice Renzi, è chiaro che poi alle elezioni rischia di vincere qualcun altro. E arriva anche una replica di Romano Prodi ad una sua battuta, una battuta di Renzi. Dice Prodi: leggo che il segretario del PD mi invita a spostare un po' più lontano la tenda, lo farò senza difficoltà, la mia tenda è molto leggera. E quindi poi, come vi dicevo all'inizio, poi torniamo a parlare della politica italiana. Il referendum per l'autonomia della Lombardia: i sindaci di tutti i capoluoghi della regione Lombardia governati dal centrosinistra si sono schierati oggi per il sì al referendum sull'autonomia della regione, in programma il prossimo 22 ottobre, e hanno annunciato che daranno vita a un apposito comitato senza bandiere. La consultazione è stata voluta dal governatore Roberto Maroni e a sostegno del sì si sono già schierati tutto il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Parliamo anche di migranti, ancora una grande emergenza, oltre 10.000 tra uomini, donne e bambini soccorsi in 4 giorni nel Mediterraneo centrale. L'esodo infinito dalla Libia non accenna a diminuire, rischiando di far saltare l'intero sistema d'accoglienza e costringendo il ministro dell'interno Marco Minniti, che era diretto a Washington per impegni istituzionali, a rientrare d'urgenza in Italia per affrontare la nuova emergenza. Sono numeri non più sostenibili, ammette il segretario del PD Renzi, mentre il presidente della Repubblica Mattarella da Ottawa in Canada accusa l'Unione Europea e dice l'Italia è in prima linea per salvare migliaia di vite umane e ciò accade ai confini dell'Europa senza ancora suscitare nel nostro continente né adeguata consapevolezza né l'emergere di sensibilità sufficientemente condivise, necessario preludio di incisive azioni comuni. E arriviamo alla RAI con il caso del contratto milionario a Fabio Fazio, che diventa un caso politico. Prosegue forte infatti la polemica e la presidente della RAI Maggioni oggi sottolinea: non so se l'azienda avrebbe mai retto all'uscita di Fazio. E il consigliere del centrodestra Diaconale, che accusa, dice: siamo stati costretti a dire di sì, se no lui se ne andava alla 7. Poi cercheremo di fare un po' il punto anche su questa vicenda stasera nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Parliamo di Alitalia, ci interessa ma a certe condizioni. Questa è l'apertura oggi di Ryanair. Una ristrutturazione profonda, a cominciare dal taglio del personale, una revisione dei contratti di leasing oggi troppo onerosi, l'uscita dagli accordi con Air France KLM che limitano la crescita sul lungo raggio e la possibilità di acquisire quote non inferiori al 50%. È a queste condizioni che Ryanair potrebbe acquistare Alitalia. Ad annunciarlo la D della low cost irlandese Michael O'Leary, che sconfinando nell'ovvio ha poi sottolineato come nessuno sia interessato ad acquistare una compagnia che perde soldi. Ryanair ha anche messo sul tavolo un'offerta di fideraggio grazie ai voli a medio raggio Ryanair e si è resa disponibile a vendere i voli all'Italia sul proprio sito, oltre che a subentrare sulle altre rotte se l'Alitalia le lasciasse. L'interesse della low cost di Dublino si aggiunge a quello di altri 18 contendenti, tra cui diversi fondi di investimento e compagnie aeree come British Airways, EasyJet, Delta e Lufthansa, che dopo aver studiato il dossier dei commissari, entro settembre faranno le loro offerte vincolanti, aprendo l'ultima fase di un percorso sul quale il ministro dei trasporti Del Rio si è detto fiducioso. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24. Ore, Roma. E siamo alla cronaca, l'omicidio di Ciro Esposito, 16 anni di reclusione a fronte dei 26 inflitti in primo grado. Questa è la pena comminata in appello a Roma a Daniele De Santis, l'ex ultras giallorosso che uccise il napoletano Ciro Esposito poche ore prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli, vi ricordate, il 3 maggio 2014. Il commento dei legali della famiglia di Ciro Esposito è incredibile, uno sconto di pena assurdo. Chiesa e fisco. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, che vieta l'esenzione fiscale per la Chiesa Cattolica in Spagna, se concessa per attività a scopo di lucro, può avere un effetto diretto anche sull'Italia. Questo l'ha detto il presidente della Corte di Giustizia Europea, il giudice Koen Lanertz, incontrando i giornalisti a Lussemburgo. E parliamo anche di questo lutto nella televisione italiana. Il conduttore TV paroliere Paolo Limiti si è spento a 77 anni, era stato colpito circa un anno fa da una grave malattia. Nato a Milano l'8 maggio del 1940, collaborò come paroliere soprattutto con Mina, per la quale scrisse canzoni di grande successo. Era stato sposato con Justin Matera. I protagonisti della TV di ieri e di oggi si sono uniti nel ricordo dell'artista. Per chiudere lo sport, l'ex campione mondiale di motociclismo Max Biaggi nel pomeriggio è stato dimesso dall'ospedale San Camillo, dove era stato ricoverato dal 9 giugno per un incidente avvenuto nel circuito sagittario di Latina. Sono felice, vado a casa, ha detto Max Biaggi. E poi c'è questa notizia che riguarda Maradona, che riceverà la cittadinanza di Napoli il 5 luglio. Prima della cerimonia ci sarà uno spettacolo in piazza del Plebiscito, sempre a Napoli naturalmente. E poi con Giovanni Capuano. Caro Giovanni, ciao. Eccomi, ciao, buonasera Roberta. Parliamo della sfida dell'Under 21 della nazionale di calcio contro la Spagna, e sto leggendo che la Germania è la prima finalista dell'Europeo Under 21, Sì, ha vinto il decimo calcio di rigore contro l'Inghilterra, la finita 2-2, tempi regolamentari e tempi supplementari siano andati ai calci di rigore, ha vinto la Germania, e quindi la Germania, che era passata da seconda nel girone dell'Italia e che noi abbiamo battuto per 1-0, è in finale venerdì sera, ore 20:45, chissà che ci arrivi la nazionale italiana piuttosto che la Spagna. Allora ti aggiorno sul risultato, quarto d'ora del primo tempo che è appena passato. 0-0, è una partita bellissima. L'Italia ha iniziato molto bene nei primi 5-6 minuti, è arrivata due volte pericolosamente alla conclusione con Chiesa che ha impegnato il portiere spagnolo Kepa, e poi con Bernardeschi che ha messo alto, e poi si è vista sesta la Spagna con una conclusione di Deulofeu murata in calcio d'angolo da un difensore con Donnarumma che si era buttato sugli sviluppi del calcio d'angolo. Deulofeu ha colpito la parte alta della traversa, insomma c'è grande equilibrio, c'è grandissima qualità e tra queste che sono forse le due squadre più forti di questo europeo, questa è quasi una finale anticipata, una finale che si gioca all'altezza della semifinale, la Spagna è favorita, inutile nasconderselo, però l'Italia ha iniziato bene, ha le carte per provare a fare l'impresa. Ci sono Calabria e Petagna al posto dei due giocatori squalificati che sono Conti e Berardi, c'è Caldara che ieri si era allenato a parte, c'era qualche preoccupazione, sarebbe stata una perdita gravissima, invece Di Biagio l'ha recuperato e quindi gioca con il suo 4-3-3 con Caldara in mezzo alla difesa, davanti ci sono Bernardeschi, Petagna e Chiesa, c'è in questo momento la Spagna che attacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo Donnarumma, l'uscita non precisissima, c'è però il fischio del direttore di gara, quindi si ricomincerà con un calcio di punizione in favore dell'Italia, Donnarumma che ha subito una carica all'interno dell'area piccola, Donnarumma che ovviamente agli occhi di tutti addosso per le vicende contrattuali con il Milan, ieri lui ha detto sono tranquillo, speriamo che lo sia perché oggi molte delle speranze della nostra nazionale passano da lui. 18esimo minuto appena cominciato, Roberta, 0-0 Italia-Spagna, speriamo. Grazie Giovanni Capuano, poi ci ricolleghiamo per capire come procede questa partita. Noi invece procediamo con le notizie, tra poco con gli ospiti per approfondire alcuni temi in particolare. Voi proseguite con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS. Tra poco torneremo appunto sulla politica italiana, anche su questo scontro che è un po' il tema del giorno tra Renzi e Prodi a distanza e con vari esponenti del PD che difendono Prodi e poi anche con questa polemica forte che continua sul contratto milionario di riconferma di Fabio Fazio alla RAI con la presidente della RAI Maggioni che ha detto senza di lui forse la RAI non avrebbe retto. Vedo già i vostri commenti, per esempio Giorgio scrive se si paga con la sua attività va bene, i tetti salariali sono un brutto gioco, non hanno alcun senso, se l'investimento funziona. Questo al netto della qualità del lavoro svolto, dice a proposito del caso Fazio. Thomas scrive, anche contro la Gabanelli i report volarono accuse a cui rispose le entrate dagli sponsor sono ampiamente maggiori delle uscite dei nostri costi. Questi alcuni dei vostri pensieri, dei vostri commenti, ci risentiamo dopo la viabilità. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi in questi 60 minuti pieni tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 di notizie, di fatti da approfondire, dei fatti principali, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo a proposito di una notizia in primo piano se seguite tutte le sere Effetto Notte. C'è per voi anche la pagina Facebook del programma sulla quale potete scrivere i vostri commenti oppure anche il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Walter per esempio a proposito di questa di questo flusso costante, drammatico dalla Libia, abbiamo parlato negli ultimi 4 giorni di 10.000 persone salvate dalla Libia, Walter scrive ma il governo con una presunta autorità governativa libica non ha fatto un accordo per fermare i migranti in cambio di aiuti e sostegno economico, ma sai Walter, poi con uno Stato completamente nel caos, adesso non so bene come funziona la questione, però ho letto anche tante testimonianze di torture, di stupri in Libia, no? Ai danni dei migranti e delle migranti, insomma quindi la situazione è veramente tale d'emergenza che appunto, come vi raccontavo prima, il ministro dell'interno Minniti, che era diretto a Washington per questioni istituzionali, è stato costretto a rientrare d'urgenza. Adesso tra poco ci occuperemo però di un'altra cosa, di un'inchiesta, l'inchiesta Consip con l'ultimo colpo di scena, almeno fino adesso. I vostri commenti ancora al 349-238-6666, dicevo, e poi alla pagina Facebook di Effetto Notte con anche le fibrillazioni all'interno del PD, Enzo che dice la sinistra del PD tutta brava gente ma tanti litigi e nessuna decisione. Vi ricordo se non avete acceso puntualmente quali sono quindi i fatti principali di oggi. Bagarre nel centro-sinistra con Renzi che dice solo le polemiche, si fanno polemiche la destra vince, poi c'è la replica di Prodi, una battuta di Renzi, dice se mi devo spostare più in là con la mia tenda mi sposto tanto leggera e la metto nello zaino. Intanto bufera in RAI sul contratto di Fazio e la presidente Maggioni che dice non so se la RAI avrebbe retto all'uscita di Fazio e con il consigliere del centrodestra della Rai Diaconale, che dice: siamo stati costretti a firmare il contratto di Fazio. Poi l'inchiesta Consip, di cui parleremo tra pochissimo con il PM Woodcock, che è indagato, con la giornalista anche Federica Sciarelli. Poi la Corte dei Conti, che parla in Italia sempre di una corruzione devastante, purtroppo. E poi attacco hacker in Ucraina e Russia, colpita Chernobyl, il premier ucraino che dice senza precedenti, ed un blitz che riguarda un po' tutto il mondo. Intanto l'emergenza migranti, altri 2.000 salvati nelle ultime ore, 10.000 in 4 giorni. Mattarella dice l'Unione Europea è inconsapevole e insensibile al fenomeno. Poi l'Unione Europea, sempre, che invece infligge una multa record a Google, oltre 2 miliardi per abuso di posizione dominante per il suo servizio di shopping. E poi, a proposito della morte di Ciro Esposito, maxi riduzione della pena a De Santis da 26 a 16 anni in appello, e la scomparsa del conduttore paroliere Paolo Limiti, aveva 77 anni. Adesso parliamo del nuovo imprevisto sviluppo nell'inchiesta Consip, nell'inchiesta in cui rimane coinvolto anche il PM napoletano che se ne stava occupando, Woodcock, per violazione del segreto d'ufficio. In pratica il magistrato è accusato di aver passato alcuni atti dell'inchiesta al Fatto Quotidiano, e il tramite di questo passaggio sarebbe stata Federica Sciarelli, nota giornalista, conduttrice di Chi l'ha visto, anche lei indagata. Ne parliamo con Ivan Cimarusti del Sole 24 Ore. Caro Ivan, buonasera. Ci riassumi proprio molto molto in sintesi l'inchiesta Consip, un'inchiesta sugli appalti, no, della centrale d'acquisti della pubblica amministrazione, in cui sono finiti anche il comandante generale dei Carabinieri, il nome del padre di Renzi, Tiziano Renzi, insomma. E poi l'inchiesta, sì certo, l'inchiesta nasce alla procura di Napoli e riguarda il maxi appalto FM4 a 2,7 miliardi di euro, sarebbe quello per la gestione dei servizi integrati degli edifici pubblici italiani. Trasferita a dicembre scorso alla Procura di Roma, oggi subisce degli sviluppi a dir poco clamorosi, perché, come giustamente dicevi, il PM partenopeo, cioè colui che ha avviato l'indagine per primo, era John Woodcock, che è finito indagato alla Procura di Roma. Su di lui poi pende l'accusa di aver passato atti dell'inchiesta Consip alla stampa, proprio in corrispondenza del trasferimento del procedimento da Napoli a Roma. In concorso con lui risponde la giornalista Federica Sciarelli, volto nuoto della RAI, conduttrice del programma Chi l'ha visto. Secondo gli inquirenti, lei sarebbe l'anello che lega Woodcock con il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo, il quale è l'autore degli scoop sull'inchiesta Consip, che sono stati pubblicati proprio a dicembre scorso, nel momento in cui il procedimento era trasferito da Napoli a Roma. In cui c'erano anche le intercettazioni, no, tra Matteo Renzi e il padre Tiziano, se non sbaglio. Esattamente, contiene degli articoli che contengono numerose intercettazioni, proprio che riguardano anche il coinvolgimento di Tiziano Renzi. Però qui si apre tutto un altro capitolo dell'indagine, perché all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma è anche indagato per falso l'investigatore Giampaolo Scafarto di Carabinieri del NOE, che ha materialmente scritto l'informativa nel capitolo che riguarda Tiziano Renzi, ed è accusato di falso in quanto avrebbe manipolato un'intercettazione per dimostrare presunti rapporti illeciti tra Tiziano Renzi e l'imprenditore partenopeo Alfredo Romeo, che sarebbe il principale indagato in questo maxi procedimento. Per corruzione. Senti, comunque Woodcock ha detto: io sono tranquillo, ho fiducia nella magistratura, fugherò ogni dubbio. Anche si è espresso anche il sindaco di Napoli, De Magistris, anche lui ex magistrato, che ha detto: lo conosco come una persona seria, grande lavoratore, adesso si vedrà, insomma. Ma infatti Woodcock ha detto che sarà ascoltato il prossimo 7 luglio, ma comunque i magistrati stanno già lavorando, insomma, su dei numerosi contatti che risulterebbero dai tabulati telefonici tra il giornalista Lillo e la Sciarelli, ecco. Quindi vedremo che con gli sviluppi nei prossimi giorni, che dovrebbero essere anche abbastanza clamorosi. Attendiamo questi sviluppi eventualmente clamorosi. Grazie Ivan Cimarusi, buon Grazie lavoro. Grazie a voi. Ciao Grazie. Ivan. adesso torniamo a parlare del caldo che continua a fare boccheggiare, come sapete, molti italiani, anche se al nord c'è una leggera attenuazione, ci sono state delle piogge, dei temporali, però ancora per un po' di giorni queste temperature tropicali continueranno e non è soltanto un disagio, come sapete, per gli esseri umani, ma anche e soprattutto per l'agricoltura. Sta mettendo in ginocchio questo caldo l'agricoltura italiana. Nei giorni scorsi sapete che il Consiglio dei Ministri ha stanziato degli stanziamenti di emergenza per le province di Parma e Piacenza, perché l'Emilia Romagna è stata tra le più colpite dalla siccità, ne abbiamo parlato, vi ricordate, con la vicepresidente della regione Emilia Romagna, proprio qui effetto notte. E in Emilia Romagna bisogna considerare che si concentra il 35% della produzione agroalimentare del Made in Italy. La situazione è critica però anche in molte altre regioni, dal Lazio alla Sardegna, alla Toscana, al Veneto, al Piemonte. Non va meglio nelle altre regioni, un po' da nord a sud. Secondo le stime di Coldiretti, si contano fino adesso danni per oltre 1 miliardo. Una valutazione che è difficile fare regione per regione, perché la situazione è in evoluzione. Però, per esempio, in Puglia ci sono gravi danni a quello che è considerato il granaio d'Italia, la Puglia. Nelle province di Foggia e Bari si denuncia una perdita del 50% della produzione, pensate. Però soffermiamoci, a proposito di sud, sulla Campania. In Campania, in particolare nel Cilento e nella Piana del Sele, secondo la denuncia di Coldiretti, ci sono problemi per gli ortaggi, per la frutta, ma anche purtroppo per la buonissima e famosissima mozzarella di bufala, perché la mancanza d'acqua mette naturalmente anche in crisi gli allevamenti e i caseifici. Ne voglio parlare con Michele Palmieri, che è direttore generale dell'assessorato all'ambiente della regione Campania. Buonasera Palmieri. Buonasera. Quindi mi conferma questi problemi, questi disagi anche per la vostra regione? Ampi problemi anche in regione Campania, sia per la parte idropotabile che per la parte relativa all'agricoltura. Ho dati molto più precisi sulla parte idropotabile, meno per l'agricoltura, però è evidente che il lungo periodo di siccità, che non accenna a interrompersi, ha ridotto drasticamente le risorse superficiali, quindi la parte fondamentale da cui attinge acqua l'agricoltura, quindi i fiumi, i torrenti, sono tutti in una macra ormai abbastanza evidente, con difficoltà di portare acqua attraverso i consorzi di irrigazione alle colture. Ci sono delle turnazioni in atto, si cerca di, per quanto possibile, di distribuire il disagio senza creare difficoltà enormi, però è evidente che se l'acqua continuerà a ridursi per mancanza di piogge, i problemi saranno destinati ad aggravarsi. Tra l'altro, Palmieri, c'è anche il rischio, fra le mille altre cose, di incendi, no? Intanto la campagna purtroppo d'estate si sente, no? Quello è un rischio che ogni anno si cerca di gestire, ma quest'anno, come devo dire, fa un po' più paura, perché la vegetazione è secca, tutte le erbe, le steppe ormai sono completamente secche, quindi ovviamente si scappa un incendio, un po' di vento diventa facilmente, raggiunge dimensioni ingovernabili, come d'altronde abbiamo visto già anche in altre zone dell'Europa. Appunto, in Portogallo, per esempio. Palmieri, senta, se dovesse dare dei suggerimenti, avvertenze, diciamo così, sia per i coltivatori, per gli allevatori, ma anche per i privati cittadini, no? Il fatto di non sperperare l'acqua o di utilizzarla in un certo modo. I consigli sono di non sprecare acqua, utilizzarla al meglio quello che c'è, perché ce la dobbiamo far durare, visto che il periodo di siccità non accenna a diminuire. Bisogna evitare tutti quelli che sono gli usi impropri, fondamentalmente sull'uso prima di tutto idropotabile, perché è quello che ci garantisce la sopravvivenza proprio personale. Quindi, diciamo, l'acqua del rubinetto va assolutamente salvaguardata e non va sprecata in nessun modo, niente in affiosi dei balconi, meglio che secca il geranio, ma non c'è alternativa, perché non vediamo la luce alla fine del tunnel. Il problema è luglio, agosto, se non inizia a piovere ci sarà una continua riduzione delle risorse, con ovviamente problemi sempre più ampi. Oggi è un disagio, in Campania non c'è una vera emergenza in questo momento, però il disagio è già notevole e con queste condizioni climatiche non può che accentuarsi, quindi va tutelata la risorsa che è ancora disponibile. Palmieri, per concludere, comunque da più parti viene detto che servono in Italia degli interventi strutturali, no? Di fronte a questa tropicalizzazione del clima bisogna organizzarsi proprio per raccogliere l'acqua in modo opportuno nei periodi più piovosi, con interventi strutturali un po' dappertutto, no? Nel nostro questo paese. Questo è sicuro, ma vanno anche adeguati i sistemi di irrigazione verso sistemi più efficienti, tipo gli impianti goccia a goccia, cercare di evitare irrigazioni a pioggia, addirittura a copertura del terreno, che sono forme di irrigazione, come devo dire, obsolete, poco efficaci, in quanto perdono una grande quantità di risorsa idrica rispetto a quello che poi effettivamente va alla pianta. Ma c'è anche tanto da fare sull'idrico, perché i livelli di perdite comunque negli acquedotti sono ancora importanti e rilevanti. Questa purtroppo è una cosa che riguarda un po' tutta l'Italia, quella, come dice appunto, della rete idrica, che si chiama colabrodo, spesso si è usata questa espressione anche negli ultimi tempi. Per il momento ci fermiamo qui, io la ringrazio, Michele Palmieri, le auguro buon lavoro, direttore generale, lo ricordo, dell'assessorato all'ambiente della Regione Campania. Grazie, buonasera. Grazie Palmieri. Grazie a lei, buonasera a tutti. Grazie. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo il filo delle notizie, abbiamo appena parlato di, della siccità, in particolare in Campania, e ancora prima del colpo di scena che riguarda l'inchiesta Consip, in cui è indagato anche uno dei PM di che se ne è occupato dall'inizio, il magistrato napoletano Woodcock, e con lui anche la giornalista, conduttrice del famoso programma Rai Chi l'ha visto, Federica Sciarelli. Adesso però cambiamo temi, andiamo sulla politica italiana. Ce n'è, insomma, diciamo, gli argomenti sono tanti e c'è molta tensione, fibrillazione, come vogliamo dire, movimento dopo le amministrative. 349-238-6666 è sempre il numero per i vostri WhatsApp o SMS, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Sulla politica, Elena scrive: Renzi ha portato il PD a sbattere contro un muro, insiste, continuo a chiedermi per quale ragione gli abbiamo consegnato il partito, se Franceschini tacesse sarebbe meglio, quindi ne ha per l'uno e per l'altro. Poi Nino scrive: l'atteggiamento della sinistra è sempre purtroppo quello del muoia Sansone con tutti i filistei, difetto dei dirigenti ma anche del popolo di sinistra. E poi Giorgio Renzi scrive: centra il punto principale, nel senso che focalizza il punto principale, dice Giorgio, cioè che vince la destra perché il popolo di sinistra non ne può più delle polemiche interne al PD. Poi dice Giorgio: solo che lo fa a modo suo ed egli stesso è uno degli attori litigiosi. Ne parleremo tra pochissimo con l'ospite che a momenti saluterò, però vi ricordo anche i fatti principali della giornata. Allarme informatico, un attacco hacker globale si diffonde dalla Russia, colpita anche la centrale di Chernobyl in Ucraina, molte società sotto scacco in tutto il mondo. L'inchiesta Consip, di cui abbiamo appena parlato, col PM di Napoli Woodcock indagato con la giornalista Federica Sciarelli, e per violazione del segreto d'ufficio, quindi fuga di notizie, il magistrato commenta: leverò ogni dubbio, fiducia nella magistratura. Il dopo elezioni amministrative, di cui parleremo tra pochissimo, con soprattutto le tensioni nel centro-sinistra, Rai sul caso del contratto milionario a Fazio, la presidente Maggioni sottolinea: non so se l'azienda avrebbe retto all'uscita di Fazio, e il consigliere di centrodestra Diaconale dice: costretti a dire di sì, altrimenti andava alla 7. Google da Bruxelles, multa record da oltre 2 miliardi di euro per abuso di posizione dominante. Migranti, l'esodo infinito dalla Libia non accenna a diminuire, 10.000 persone soccorse negli ultimi 4 giorni. Lutto in TV, è morto il conduttore paroliere Paolo Limiti, aveva 77 anni. E per il calcio prosegue la partita Under 21 tra Spagna e Italia 0-0. Insomma, la sconfitta del PD sicuramente brucia Renzi, brucia il centro-sinistra in generale, al Partito Democratico, diciamo, in primo piano questa sconfitta nell'ex Roccaforti, che ha risvegliato questo brutto risultato, naturalmente ostilità, rancori, veleni. Renzi dice: le continue esasperanti polemiche nel centro-sinistra alla fine non fanno altro che far vincere l'avversario. Vogliamo sentire questo passaggio? Le continue esasperanti polemiche all'interno del centro-sinistra alla fine non fanno altro che agevolare il fronte avversario. È sempre stato così, è normale, è fisiologico, secondo me è un errore politico, ma ovviamente questo dipende dalle singole esigenze. Se in tanti pensano che il problema sia soltanto dentro il PD, poi è chiaro che alla fine arrivano le elezioni e rischia di vincere qualcun altro. E poi dice, a proposito anche le discussioni, i ragionamenti sulle coalizioni, chi si allea con chi, dice: fanno addormentare gli elettori. Qualcuno dice a sinistra si perde, purtroppo si è perso il titolo del QN, si è perso purtroppo anche al centro in alcuni casi, ma certo che il dibattito sulla coalizione è un dibattito che addormenta i cittadini e che non serve. Si è vinto dove c'era la coalizione e si è perso dove c'era la coalizione. Nel senso che non è di per sé la coalizione, è il candidato, è il leader, è il territorio, è l'organizzazione sulla città che segna la vittoria o la sconfitta ai ballottaggi. E poi c'è tutta la polemica con Prodi a distanza, ma intanto saluto la nostra Betta Fiorito da Roma, cara Betta. Ciao Roberta, una buonasera a tutti i radioascoltatori. Senti, ma mi dai questa buonasera dalla tenda o dove sei tu? Guarda, il problema è la tenda, ecco, qui, appunto. Quindi, no? Qui siamo tutti ritornati indiani per le rossa. Dove pianteremo la nostra tenda? Perché? Perché a un certo punto, dopo queste polemiche di Matteo Renzi, Romano Prodi ha detto: ah, va bene, ma Renzi mi dice che devo spostare un pochino più la mia tenda, non è problema, non c'è problema, è una tenda leggera, la metterò poi eventualmente nello zaino. Ora, questa cosa della tenda è un po' un riferimento anche, secondo me, al passato di Matteo Renzi, che era Boy Scout. Ti parla un ex Boy Scout, Roberta. Beh, anch'io un pochino l'ho fatto. Le tende all'epoca erano terribili, erano queste tende molto molto pesanti, umide, tutte di cotone, umide, che si impregnavano d'acqua, eccetera. Oramai Romano Prodi dice: ma ci sono queste tende super tecnologiche, che le lanci si aprono e poi le rimetti dentro. Si aprono, e soprattutto con materiali tecnici e poi anche il ferro, l'intelaiatura non più di ferro ma assolutamente di materiali ultraleggeri. Insomma, bando alle ciance, il problema è la leadership di Renzi, questo mi sembra evidente, non solo per quello che ha detto Romano Prodi e perché Graziano Del Rio, che pure è un renziano in transatlantico a Montecitorio, ha detto: ah, ma le tende si possono riaprire, no? Spero che la riapra, la tolga dallo zaino, sì. Sì, insomma, e che tutti quanti mirano a difendere il professore, ricordiamo, leader del centrosinistra, ex leader del centrosinistra, fondatore dell'Ulivo prima, dell'Unione poi, insomma, sì, è stato richiamato un po' in ballo, no, nelle ultime settimane. Sì, Elisabetta, detto, sì, però, sì, anche perché lui fa parte poi di quella corrente, cioè ricordiamo che cos'è il PD. Il PD è un partito che nasce dal centrismo cattolico di Prodi e oggi di Renzi e di Rutelli un tempo, e la sinistra di Veltroni un pochino più moderata, di D'Alema all'epoca. Questo era il PD, e quindi Prodi è il padre di Matteo Renzi, se così vogliamo dire, il padre politico, per cui, cioè, che Prodi dica questa cosa. Franceschini, che è un altro che viene da quell'area, dice: forse c'è qualcosa che non è andato in queste comunali, quindi bisogna cambiare rotta. Perché dice: il PD è nato per unire, non per dividere, no? Per unire il campo del centro-sinistra. E in questo si trova d'accordo con Nicola Zingaretti, che fa parte della corrente di sinistra e che è della corrente di Andrea Orlando, quindi qui stiamo parlando della sinistra, che dice la stessa cosa: il PD da solo perde, deve unire e non dividere. Quindi il leader è solo, ha perso le comunali, ha vinto le primarie. Come lui stesso ha risottolineato questa sera. Però forse, come dice Cooperlo, Renzi divide e serve una leadership che unisca? Vabbè, che Cooperlo E lui lancia la leadership di Berlusconi, abbiamo un altro problema. Un lapsus molto freudiano. Però io ti dico, loro potrebbero dire: va bene, allora Gentiloni fa parte della stessa area cattolica, però può unire perché è un premier che poi è soft, è calmo, risolve i problemi senza urlare. E questo potrebbe essere una soluzione. Ricordiamo però che il leader è solo e che il paese forse è stanco di questa continua contrapposizione. Senti, vorrei fare sentire anche Orlando che cosa dice a proposito sempre della minoranza del PD di sinistra. Cosa dice a proposito di questa polemica con Prodi? Sentiamo. Mi auguro vivamente che non avvenga, che Renzi faccia di tutto per recuperare non solo un riferimento importante per il PD, ma in fondo il simbolo del processo di costruzione del Partito Democratico. Questo a proposito di Prodi. Direi invece di sentire molto brevemente, per dare un po' di spazio a tutti, Elisabetta, anche che cosa ha detto Di Maio dopo queste amministrative che non sono andate benissimo neanche per il Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Ci dobbiamo andare al governo di questo paese, dobbiamo lavorarci un po'. Ecco, dobbiamo lavorarci un po'. Non mi sembra questa dichiarazione che aprirà i giornali a carattere cubitale, quelli di Maio. Però, sì. Allora, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, un attimo e poi ci vengo. Sì. L'ultima cosa sul PD, ricordiamo che le primarie del PD e le primarie del centrosinistra hanno poi questo aspetto un po' plebiscitario, no? Come quando nel 1861 si fa il plebiscito nel Regno delle Due Sicilie e tutte quanti dicono sì per andare con i Savoia, no? Quindi anche questa è una cosa che Matteo Renzi forse dovrebbe considerare. L'altra cosa sul Movimento 5 Stelle, a parte vabbè il fatto che loro ribadiscono nessuna alleanza eccetera, c'è Davide Casaleggio che è tornato a Roma, ha dovuto dire che appoggia la Raggi, perché ricordiamo ha pranzato che con lei oggi, sì, dicendo che la sostiene, va avanti. Penso che questo pranzo lei è ovviamente la nostra sindaca, io parlo da Roma, dice ovviamente che è tutto bellissimo, no? Perché lei fa sempre queste, lei si dà 7:30, fa i post sul fatto che a Roma tutto funzioni, in realtà è un disastro. Ovviamente questo pranzo sarà stato un altro pranzo in cui Davide Casaleggio le avrà chiesto di portare risultati, ma lei io non credo che sia così capace, però vediamo, speriamo per Roma che lo sia. L'altra cosa, Davide Casaleggio ha detto però una cosa importante, riguarda il governo del paese. Noi faremo una consultazione con le parti sociali. Il nostro programma quindi verrà deciso con le parti sociali. Chiarissimo su questo, questa Betta. È un'apertura verso un aspetto democratico che viene sempre contestato al Movimento 5 Stelle e che va sottolineato. Hai fatto benissimo a sottolinearlo. Leggo intanto Gilberto che scrive: vorrei capire perché io e tutti gli altri che hanno votato Renzi segretario dovremmo sottostare ai tromboni che ne chiedono le dimissioni. Va bene, senti, adesso però occupiamoci brevemente, abbiamo ancora un minuto, veramente Elisabetta Fiorito, un minuto per occuparci anche del centrodestra, con Salvini che rimprovera Berlusconi insomma di occhieggiare un po' troppo nei confronti di Renzi. A questo punto, se Berlusconi su questo tace, mi viene il dubbio che strizzi l'occhio a Renzi, perché chi vuole il proporzionale vuole l'inciuccio, vuole il minestrone, vuole tenere il piede in due scarpe. Però non ho tempo e voglia di occuparmi su questo, stiamo preparando la riforma della giustizia, la riforma delle pensioni e la riforma della scuola. Chi ci ama ci segua, non costringo nessuno a far niente controvoglia. Stessa accusa nei confronti di Berlusconi anche dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Negli ultimi mesi abbiamo avuto l'impressione che diciamo fosse più interessato a dialogare col fronte avverso piuttosto che con i suoi alleati storici. Penso alla legge elettorale, io continuo a chiedere che il centrodestra faccia una propria proposta di modifica della legge elettorale e che poi la presenti a Renzi, mentre gli altri hanno preferito trattare direttamente con Renzi, che secondo me non è una cosa utile. Hai 32 secondi, Betta, da questo momento per commentare queste ultime dichiarazioni riguardo il centrodestra. Una notazione personale, secondo me Silvio Berlusconi, malgrado sia comunque una persona anziana, è sicuramente una persona di un'intelligenza superiore sia a Giorgia Meloni sia a Matteo Salvini, ma questa è un'opinione personale. La cosa è diversa, Silvio Berlusconi non vuole sottostare ai ricatti di Matteo Salvini. Silvio Berlusconi, ma non solo Silvio Berlusconi, Forza Italia, perché Romani oggi ha risposto, ha capito che i moderati in Italia vincono, quindi la Lega e Giorgia Meloni, se si accordano su un fronte moderato, ma questo l'hanno detto già ieri, si vince uniti con magari uno spostamento a destra di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Altrimenti anche il centro-sinistra è destinato a perire nelle prossime elezioni politiche. Mamma mia, grazie Elisabetta Fiorito. Questo poi può darsi che non sia così, però vediamo. Questo è il pronostico di Elisabetta Fiorito, almeno dice che questa potrebbe essere la conseguenza. Buon lavoro lì a Roma, ciao Elisabetta. Arrivederci a tutti. Ciao, a presto. Noi adesso sentiamo quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia e poi torniamo sulla polemica che riguarda il contratto di Fabio Fazio in Rai. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberto Giordano, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Adesso tra pochissimo, dicevo, parleremo ancora del contratto che tante polemiche ha suscitato di Fabio Fazio in Rai. Elena dice: io ho una mia opinione, tenendo conto che un referendum abbiamo deciso per la vendita della Rai ai privati, non è proprio così, un referendum del 95, insomma, era parziale, si dovrebbe tenere una sola rete per le news e poco altro, e così facendo non ci sarebbe neanche un caso Fazio. E poi qualcuno che dice: se Fazio si paga con la pubblicità, con gli inserzionisti pubblicitari rispetto a quello che produce, va bene. Qualcun altro invece, Andrea, dice: ce ne saremmo fatti una ragione. Immorale Maggioni, cioè la presidente della Rai, che sperpera soldi non suoi. Vabbè, adesso ne parliamo. Vi ricordo quali sono brevemente i fatti principali: appunto, questo allarme informatico di un nuovo attacco hacker globale che ha riguardato la Russia, l'Ucraina, ma anche varie società sotto scacco in tutto il mondo per questo attacco informatico. Poi l'inchiesta Consip con il colpo di scena che vede indagato anche uno dei magistrati che si erano occupati all'inizio di questa inchiesta, cioè il PM napoletano Woodcock, indagato insieme alla giornalista Federica Sciarelli. Il dopo elezioni amministrative, abbiamo appena parlato dei dissidi interni al PD, ma anche dei tira e molla nel centrodestra e della posizione del Movimento 5 Stelle. E poi parliamo adesso di Rai, e a proposito della TV, è morto il conduttore paroliere Paolo Limiti, aveva 77 anni. Il cordoglio della televisione. Per il calcio prosegue l'Under 21, la sfida tra la nazionale italiana e la Spagna, che prosegue 0-0. Oh, invece adesso con Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Caro Andrea, buonasera. Buonasera. Parliamo del caso del rinnovo del contratto quadriennale di Fabio Fazio per restare in Rai e per il suo passaggio da Rai 3 a Rai 1, un contratto da 2 milioni e 2 di euro annui più le spese di produzione dei collaboratori, che è diventato un vero caso politico istituzionale, no? Con roventi discussioni in commissione parlamentare di vigilanza, che è l'organo di controllo e di indirizzo della TV pubblica, e con delle dichiarazioni quasi deflagranti, con da una parte il consigliere di centrodestra della Rai Arturo Diaconale, che ha detto: siamo stati costretti a sottoscrivere questo contratto di Fabio Fazio, altrimenti se ne sarebbe andato l'assetto e noi avremmo dovuto rispondere per danno procurato all'azienda. E poi ancora più forte è la dichiarazione della presidente Monica Maggioni, che dice: non so se la Rai avrebbe retto a una fuoriuscita di Fazio. Sì, sono, diciamo, delle dichiarazioni che fanno capire quanto il discorso del rinnovo del contratto di Fazio abbia un po' catalizzato tutte le problematiche che si sono concentrate in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. La Rai ha vissuto dei grandi momenti di turbolenza che hanno portato appunto all'uscita di scena del direttore generale, dell'ex direttore generale Antonio Campodall'Orto. L'arrivo di Mario Orfeo alla direzione generale ha un po' portato da una parte una necessaria pacificazione, dall'altra parte anche la consapevolezza che bisognava risolvere dei nodi. Uno di questi nodi è quello degli stipendi degli artisti. Fazio è stato il primo a essere preso in considerazione, perché il suo contratto scadeva il 30 giugno. Dopodiché, ecco, si è arrivati a questo punto in cui onestamente si capisce anche che gran parte della polemica è politica e non nel merito. Di certo la questione è complicata, perché c'è un tetto che è stato stabilito dalla legge sull'editoria, c'è un tetto ai compensi. Questo tetto ai compensi non può valere per tutti, è stato detto, e quindi poi è stata fatta una delibera per sancire delle deroghe per gli artisti con determinate caratteristiche. Il CDA è arrivato a fare questa delibera, però alla prima occasione, come dire, è arrivato questo contratto che però è pluriennale per Fazio. Questo aggiunge anche un problema, perché quattro anni esattamente, perché la delibera sulla deroga, che riguarda la deroga ai tetti e ai compensi degli artisti, è una delibera che parla di un orizzonte annuale, quindi una sperimentazione annuale. L'aver fatto questo contratto pluriennale in qualche modo ha generato più di una perplessità. Comunque sia, domani ci sarà la presentazione dei palinsesti RAI. Che sarà piuttosto movimentata, immagino. Sicuramente sarà movimentata. Devo dire che le dichiarazioni di oggi sono state abbastanza forti, quando la presidente Monica Maggioni dice che forse la RAI non avrebbe retto come sistema. È francamente una... Forse un po' esagerato, che dici? Forse un po' esagerato, comunque c'è da dire che Fazio è un marchio, Fazio è un brand, e quelli che hanno fatto presente la necessità di questa deroga ai tetti hanno anche fatto presente il fatto che la RAI è un'azienda che sta sul mercato, e per stare sul mercato necessita di determinati prodotti, necessita di personaggi, di contenuti che possano farla stare sul mercato. Altrimenti, oggi la stessa consigliera d'amministrazione Borioni, durante la commissione di vigilanza, ha detto che la RAI ha un'audience del 37%, questo comporta delle scelte e dei costi. Diversamente, facciamo una RAI al 20% di audience, avrà altri costi, altre scelte, forse anche altri impatti dal punto di vista occupazionale. È una questione di scelte, l'importante, o meglio la speranza, sarebbe che queste scelte in qualche modo non vadano a finire nel calderone delle polemiche politiche, ma che si resti abbastanza sul tema del merito, perché chiaro, altrimenti poi va a finire che, come dire, si mette in croce, si mette all'indice. Qualcuno chi guadagna giustamente o meno, insomma, chi guadagna per un prodotto che offre guadagna tanto e viene chiaro, messo all'indice in maniera forse anche ingiustificata. Grazie Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Grazie Andrea, noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.